Bene, bene, bene, bene, sì. Bene, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Oh, finalmente rieccoci qua. Ecco gli spazi seri. Facciamo un po' di intrattenimento, visto che qui c'è un conduttore che sta guardando il computer e non sta neanche pensando a parlare. Un ospite qui che fa i suoi cavoli al computer. Ma come? Ma come? Io sono ospite. Cioè, innanzitutto, dovete prima presentare voi. Innanzitutto, io vorrei fare una preghiera al presidente, che si palesi in chat da qualche parte, perché qui non vanno le cose. Le cose non vanno. Signor Presidente. Mr. President. Wow. In English, please. Dear President. Oh, amico tuo, è venuto a mangiare a casa. Dear sì. President. No, a casa no. Però ho mangiato con lui tante volte. Allora lo puoi dire. Dear President. Dear President. Yeah. Call us, please. Or chat with us, please. Sì, chat, chat. Chit-chat. Ma a parte tutto ciò, a parte la preghiera al Presidente, abbiamo qui un ospite che nessuno si aspetta. Nessuno ha mai ascoltato in radio, nessuno sì, si aspetta. È una voce nuova, come la scorsa puntata, sì, che c'era Inef, ricordiamolo, perché il podcast non l'abbiamo prodotto. Ecco, allora, ci scusiamo. A proposito, la registrazione non abbiamo staccato, perfetto, perfetto. Controlla, per favore. Mi odia. No, non ti odio, però tu controlla. Sì, c'è. Ah, ci scusiamo con tutti i nostri web radioascoltatori. Quelli lì? Perché la settimana scorsa è non colpa è mia. Cioè abbiamo fatto stop ma non abbiamo fatto rec, quindi... Sì, perché io per fare il purista ho detto ora stacco monoserie e poi riattacco noi. Non ho più riattaccato noi. E vabbè, e quindi chi si è perso la diretta del puntatone con Inef, mi dispiace per lui, si è perso. Ormai la puntata è andata. Ma questa è un'altra serata, è un'altra puntata. Questa volta parliamo di una serie TV. Allora, posso leggere la descrizione che ho fatto dell'evento? Perché secondo me è bellissima. Va bene. Addirittura, ah, ma quella là di Facebook. Quella di Facebook, l'ho esatto. Letta, l'ho letta. Aspetta un attimo che ci arrivo. Perché ho trovato due, cioè, vabbè, non... Bellissima sta canzone di sottofondo. Intanto lui sta sparando. Ecco. No, un attimo che la rete va. Oh. Ecco. A parte che dalla foto subito si capisce, cioè... Voi volete fare dalla foto sempre, ma... si capisce. Sì, ah, forse perché sei tu che non ne conosci le altre serie, è diversa la questione. Perché se non conosci la serie, da questa foto non lo capisci. Effettivamente. Che perché è presa da lontano, dai. Anch'io ho pensato, però poteva mettere una foto un po' più ambigua, qualcosa. Sì, però vabbè, diciamo che chi non l'ha mai vista non lo sa. Potevo mettere un computer, questa battuta è veramente nerd, non vado avanti, prego. Comunque, con l'apostrofo, sì, l'ho capito adesso. L'ho capito adesso. Perché non sono non così spiego, nerd come dice quell'uomo. Allora, la serie di cui parleremo ha fatto parlare di sé in ogni modo ed in ogni luogo. Seguo quella canzone che ha vinto Sanremo. Sì, in ogni lago. Dalle Americhe all'Oceania, dagli inglesi ai pakistani, dagli appassionati agli scettici. È ma soprattutto a stregare i pakistani. Ad appassionare quasi tutti. Come? Soprattutto i pakistani, scusa. È vero, appassionare quasi tutti. Perché quasi io tutti. Sono uno che non segue le serie televisive. Però quasi tutti, perché c'era gente che lo odiava. Sì, è vero. Però devo ammettere che la prima serie televisiva che ho seguito dalla prima all'ultima stagione è stata questa qui. Per concludere, per gli altri, quelli che non gli interessava la serie in sé, tanto sole, bella spiaggia e un buon libro. E anche qui qualche riferimento sì. C'è. Questa però un po' io non me la ricordo bene, questa qua del libro. Te la ricordi bene? No. Non me la ricordo. Neanch'io. Benissimo, diciamo. Diciamo che è una serie piena di citazioni. È una serie piena... No, ma questa è una citazione della serie. Cioè, a ospite... Si comincia aiutami, bene. A aiutami, ospite. La prima puntata aiutami. Della terza stagione. Sì, giusto. Oh, è vero, vedi, è vero. Che ti vero. Faccio le citazioni. È vero. Te le metto così. È vero. Però non mi ricordo che libro era. Però è vero, stavamo leggendo il libro. È un'altra storia. È vero, ricordo. È partito un spoiler di sottofondo. Si è sentito pochissimo, però intanto. Intanto Spatch si fa i cazzi suoi su Facebook. Ma guarda, non è vero, sono qui sulla chat che no, è ancora. No, adesso non cominciamo. Ah, Spatch. Okay. Scusa. Vedi? Oh, l'ho usato che la zecco. No, pensavo ce l'avessi con me. No. Perché? Allora, diciamolo, stasera parliamo di Lost. Oh yeah. Persi, Lost, che vuol dire Lost? Persi, persone perdute. Perché perdute? Perché? Tu perché sei l'ospite. Parto? Vai. Allora, vai. Io volevo partire, no, con la definizione che ha dato Wikipedia. Perché mi ha colpito molto, perché la fa molto, molto semplice. Sì, sì. Quando in realtà non lo è per niente. Cioè, penso che sia una delle serie più complesse. Immagino che anche per voi lo sia, che siete dei sfegatati spacciaserie, veramente. Cioè, nel senso che... Allora, tieni tu, bravo. Mi sta tenendo il microfono il giovane spaccio. Spaccio. Allora, il 22 settembre 2004, l'aereo di linea dell'Oceanic 815, in volo da Sydney e andava verso Los Angeles, si schianta presso un'isola del sud del Pacifico, apparentemente disabitata. I 48 sopravvissuti si accampano sulla spiaggia e si organizzano per resistere fino all'arrivo dei soccorsi, che tardano ad arrivare. Sì, diciamo che arrivano, ma vabbè. Inoltrandosi nell'entroterra, i personaggi scoprono che l'isola nasconde la presenza di un gruppo di nativi loro ostile, denominati gli Altri, e quella di altri esseri, tra cui un mostro che si manifesta sotto forma di fumo nero. Vabbè, questi erano drogati. Vabbè. Mentre numerosi tentativi di fuga vengono vanificati, i sopravvissuti scoprono la natura eccezionale veramente dell'isola, che presenta proprietà fisiche e spazio-temporali fuori dall'ordinario. È vero, cioè, veramente fatto bene. Devo ammettere che questo riassunto è fatto bene. Però è... sì, sì, sì. Sembra tutto, da tutto per scontato, sì, però un certo punto. Sì, è finito qui. È veramente spettacolare, perché... diciamo che riassume bene. Dice tutto, però non fa capire il pathos, esatto, della cosa. Esatto, non fa capire tutto il dramma che c'è dietro questo benedetto. E noi per farlo capire abbiamo invitato l'ospite, cioè esatto. Non perché lo sapevamo leggere anche noi Wikipedia. Infatti, Wikipedia, noi non abbiamo mai letto Wikipedia. No, mai. No, mai. Nella mia vita non so cosa sia. No, cos'è Wikipedia? Una serie spettacolare, intanto dico i nomi degli sceneggiatori. J.J. Abrams, Damon Lindelof. Che forse è, diciamo, un po' il top. Sì, infatti è famoso. Cioè, è il padre della TV moderna, non diciamo. Sono esperto di serie televisive. Ma quante ne ha fatte lui, cioè? Ma di questa successi. L'ha fatto diventare molto famoso, sbaglio? Sì. Sì, sì, sì. Sì. Poi lui è anche regista e sceneggiatore di Non lo so. Fringe. Ah, è su, Fringe. Che cos'è? È il frigo di casa mia, la... io quando lo apro faccio Fringe. Vabbè, io pensavo, vabbè, no. Evviva la Fringe, che Dio la benedinge. No, no. Vabbè, basta. No. Insomma, no, non so cosa sia. È una bellissima serie TV che tu non segui, maledetto. Grazie. Dovresti farlo. Sì. Quindi J.J. Abrams, Lindelof e Lieber. Poi tra i produttori è famoso, perché io quando andavo in internet lo cercavo, perché Lost ti mette un patema, veramente ti dice, devo sapere. No, perché quando io la seguivo, e devo dire che l'ho seguita tutta in italiano e non sottotitolata. Cioè, allora, e quindi c'era il dramma, perché io invece la seguivo in inglese e quindi ero avanti. Lui era avanti. Ma anch'io ero avanti. Ogni volta lo incontravo e lo minacciavo, facevo, adesso ti spoilerò cosa è accaduto in questa puntata. Lui no! E scappava via sul lungarno. Di Lost bisogna dire che soltanto l'ultima stagione qui in Italia è stata trasmessa in italiano il giorno successivo. Le altre erano almeno una settimana in ritardo. Sì, è vero. No, no, no. Tu dici sì, è vero, l'ultima no. stagione. L'ultima stagione è il giorno successivo. Il giorno successivo, sì. Un paio di stagioni precedenti erano una settimana in ritardo. Sì, diciamo la quinta. La quinta solo la quinta? Okay. Mi pare di sì, perché è su Sky che è andata così. Sì, è su Sky. Mentre sulla Rai, vabbè, si è persa, è andata malissimo anche come ascolti. Veniva mandata in estate. Sì. Invece io mi ricordo che io vidi la prima puntata, era il 6 marzo del 2005, se non ricordo male, cioè mi pare di aver rivisto pure, quindi sì. No, 2006. Il 6 marzo del 2006, quando la fecero su Rai 2. E io ero lì alla prima puntata a guardare così. Quest'occhio di questo personaggio che si apriva. Posso confessare Lost, che... spoiler in maniera orrenda. Lost inizia Styler. E finisce Styler. Lost Styler. E basta. Lost inizia con un occhio che si apre e finisce con un occhio, con lo stesso occhio che si chiude, ai noi. Oh. Sì, quindi questo è spoilerone, perché questo è uno spoilerone. Veramente... E poi ti ho detto spoiler degli spoiler, cioè, ora, spoiler. Guarda, io mando tutta la serie dello spoiler, perché lo merita. Ci sono i bambini. Beh, sono tornati. C'è anche da dire che questa puntata, lo diciamo per tutti, sì, conterà tanti spoiler. Sì, infatti. Come dicono i politicazzi, questa puntata non è spoiler free. Esatto. Perché esatto. Io li seguo i politicati. Bravo, esatto, bravo, esatto, bravo. Esatto. Beh, volevo dire, allora, ho perso un po' il filo del discorso, non mi ricordo nemmeno cosa dovevo dire. Vabbè, no. C'hai anche la scaletta scritta davanti. Ecco cosa volevo dire. Volevo dire che è stata una serie anche dei record, perché in America è stata parecchio seguita. Soprattutto le prime stagioni. Le prime stagioni ha incollato alla televisione molte persone record sul numero di persone che seguivano una serie televisiva. Ma soprattutto che seguivano una serie televisiva di fantascienza. Sì, sì, esatto, sì. Perché questa è fantascienza, sì. Pseudo-fantascienza. Pseudo-fantascienza, Lost è un po' al limite. È un calderone Lost. Cioè, alla fine in Lost succedono talmente tante cose. Si svolgono talmente trame di trame di trame. Infatti in un certo succede punto... succede di tutto, cioè, diciamo... però è bellissima. Soprattutto Lost mi ha fatto capire una cosa. A me piacciono le serie dove non è che puoi vedere la prima puntata e la quinta, poi puoi vedere la terza... perché tanto le puoi seguire tipo non lo so. Quindi ti piace Beautiful per intenderci. Oh! No, Beautiful puoi saltare 600 puntate e riesci a prendere più. No, Lost invece se perdi anche una scena è finita. Cioè sì. Perché ogni puntata è un'evoluzione, uno svolgimento di qualcosa, giusto? Esatto. Giusto. Ecco, a me piacciono quelle serie così in cui non ti puoi perdere nulla. Non tipo The Big Bang Theory che avevo iniziato a vedere, però ho capito che se vedevo la decima o vedevo la quinta, l'ordine temporale non più o meno, sì, più o meno hai ragione, ma però sì, non ma del sì. Tutto. Quelle serie televisive non mi piacciono, che vi devo dire, non mi piacciono. Allora io ho dei consigli da darti, poi te li do in separata sede, su delle serie che devi guardare tutte. Ma sì. Ti do anche delle serie piccoline, così non ti devi sforzare tanto. Se vuoi te le spaccio direttamente io, sì, ho qui l'hard disk, te le passo. Che però poi mi devi venire a fare l'ospite anche se va bene, va bene. Se ti piace. Tanto cioè. Te lo faccio per Lost. Cioè comunque, ho studiato 3-4 ore almeno in effetti. Per questa puntata, cioè per ricordarmi un pochino com'è andata. Dunque, volevo confessare a tutto il pubblico che anch'io ho cominciato a guardare Lost in italiano. Ah, vedi? All'epoca non ero ancora drogato come lo sono adesso. E l'ho guardata per caso anch'io su Rai 2. Quel 6 maggio, 6 marzo, marzo 2006. Del 2006. La prima puntata ti guardasti addirittura. Guardai tutta la prima stagione in italiano. Oh. Poi dopo sono diventato così seriale, così... E così serio. E così americano in generale. E così spaccio serio. Spaccio serio. Oh yeah, vabbè. Venite da me. Allora, abbiamo detto 6 stagioni, giusto? Sì. Vabbè, ma mandiamo una canzone. Mandiamo un bel pezzo di musica. Piero, cosa ci fai ascoltare? Io volevo farvi prima una domanda. Prego. Domandaci. Come state? Io sto bene. Sei sicuro? No. Ed eccoci. Au! I feel good. Na, na, na, na, na, na. Ma questa canzone era Lost? Sì. Ah, però. Sì, sono canzoni abbastanza retro, come potete dire. A parte quella di prima, del primo pezzo che abbiamo mandato degli Stain. Le altre sono tutte più retro. E... che c'è? Che succede? Intanto ci sono cavi succede che si muovono qui. Fa. Sì, dei serpenti, delle cose. Allora. Tranquillo tu, non ti preoccupare. Io volevo un pochino spiegare la struttura delle stagioni, perché Lost è veramente ben diviso, secondo me. Sì. Le stagioni finivano in una maniera veramente, cioè, ti lasciavano col fiato sospeso, tu dicevi, no, devo aspettare, mamma devo mia. Aspettare. E mi ricordo, per me, la cosa più difficile è stata aspettare tra la quinta e la sesta stagione. È stato veramente Mi ricordo che dramma. Ti lamentavi ogni volta che uscivamo sulle spallette, ci dicevamo, ma quando ricomincia? Ma perché, sai, queste cose qui e cominciava con tutti i misteri, le cose. Sì, sì, perché secondo me Lost, vabbè stavo no, il mio peggiando. Parere finale vorrei dirlo alla fine. Perfetto, essendo mi sembra un parere finale. Finale, cioè mi sembra anche normale. Allora, la divisione... Il parere finale all'inizio infatti, è un po' strambo. Infatti, è un po' infatti. Strambo. Allora, io volevo dire, no, la divisione delle stagioni. Prima stagione, questo aereo... che è lì bello che vola nel bel mezzo del Pacifico. Vedi, ascoltate l'aereo, questo aereo, no, che vola lì nel bel mezzo del Pacifico, e a un certo punto boom, comincia, succede qualcosa. Paperino. E l'aereo va in rotta di collisione. Cioè allora non va in rotta di collisione. No, succede una cosa importante, si spezza in due. Soprattutto si spezza in due. Sì, in due tronconi. In tre tronconi, è vero. Sì, ma soprattutto due. Soprattutto due. Sì. Vabbè. Poi no, faccio notare che aveva detto, io non voglio spoilerare. No, ma, io non sono contro lo spoiler. No, aspetta, no. Volevo dire che non dirò poi così tanto, cioè... Perché è impossibile, anche perché è impossibile in un'ora e un quarto, cioè perché abbiamo un'ora, anzi, in un'ora dire tutto quello che succede in Lost, è veramente impossibile. Non ce la faremo, mai. Ma è anche giusto non dire tutto. È anche giusto non dire tutto, però siccome vorremmo fare un po' riassunto, no? Diciamo qualcosina di importante. Allora c'è questo aereo, no? Che precipita sull'isola, diviso in tre pezzi. E infatti la prima puntata, la prima stagione comincia con un occhio che si apre. Questo, che è l'occhio di un protagonista importante, principale, Jack Shepard. Oh, famoso Jack, okay. Shepard si apre e si ritrova, si vede benissimo, ecco come comincia Lost, già subito ti fa innervosire, perché ti ritrovi, lo vedi che questo qui si sveglia, dice praticamente, sembra dire dove sono, no? Ed è vestito in giacca e cravatta nel mezzo di un'isola tropicale, perché lo vedi che c'è una foresta tropicale, no? E lui è in giacca e cravatta, dici ma che cazzo, cioè questa è la prima scena, no? E com'è, cioè lui si ritrova in mezzo agli alberi, no, alle palme, vestito in giacca e cravatta, poi un giorno si gira e arriva un cane. Cioè, ma un cane domestico? E tu dici, ma che cavolo. Vabbè, c'entra? Già lì poi si gira ancora di più. Sì, e vede il disastro aereo totale. Pensate, Jack Shepard è il personaggio principale. Cioè, è uno dei personaggi principali di Lost. Pensate, gli autori lo volevano uccidere alla prima puntata della prima serie. Ah, sì? Sì, lo volevano uccidere. Non lo so, però l'idea... L'iniziale idea era quella di ucciderlo alla prima puntata della prima povero serie. Jack. Povero e Jack. Poi come se avrebbero potuto. Poi l'hanno fatto vivere giusto un altro po'. Giusto. No, ma io l'osservazione che vorrei fare è che se gli sceneggiatori hanno lavorato così a cazzo che non avevano un'idea, figurati se noi dobbiamo avere un copione scritto per la puntata degli spacciaserie, cioè. Ma non è vero, ecco, molti hanno questa teoria che siccome è pieno di misteri questa serie televisiva è piena di misteri, allora molti hanno l'idea che Lost sia, cioè ci sia una serie di cose, di scene in cui un orso polare si trova in mezzo a quest'isola tropicale. No? Invece noi vogliamo sfatare questi miti, perché non è vero. No, secondo me non è vero. Che ci stava l'orso? Non no, è vero. Secondo me... Vabbè, lo diciamo alla fine. Vabbè, insomma, non parliamo di niente, puffa nel frattempo. No, diciamo tutto alla fine. Aspettate, la prima stagione. Allora, succedono cose stranissime. Allora, si sentono rumori tra gli alberi. Gli alberi si muovono. E si e dice, ok, sembra un tirannosauro. Sembrava Jurassic Park. Jurassic Park. Sì, quando poi, c'è la scena del tizio nel pilota che viene preso. Sì, esatto, infatti. Poi si vede il pilota che poi... Quello è quello di Heroes. È quello di Heroes. Ah, sì? Sì. C'è il pilota all'inizio che è quello di Heroes. Quello di Heroes quale? Non me lo ricordo il nome. Ora, quello che leggeva spoilerare. Quelli che leggeva i pensieri. Ah, ho capito. Il grassone simpatico. Esatto. È il pilota di Lost. Che se tra non l'altro, male, però, uno spoiler che vi faccio così, recita anche in Love Bites, è una serie che è uscita poco fa, due minuti fa. Okay. Ma tanto tutti quando, recitano in quando tutto, arrivano alla 1024esima puntata lo chiamano Love Kilobytes. Ma detto questo andiamo avanti. Merda. Ne uscite? Ok. Insomma, quindi, questi alberi che si muovono da soli. Loro finalmente raggiungono la punta dell'aereo che sta sopra un albero rimasto incastrato, e c'è il pilota lì mezzo morto, sta per dire qualcosa, sta per succedere qualcosa, finalmente arriva qualcosa che mangia il pilota, non si vede nemmeno, come, però vedi solo sangue, questo pilota che muore. Poi appaiono persone che dovrebbero vogliono, essere morte. Appaiono persone che dovrebbero essere morte, però appaiono anche persone che vogliono prendersi qualcun altro. Cioè, o meglio, uno che dice di essere caduto, anche lui, no? Con l'aereo. Sono caduto. E poi si scopre che questo qui non era presente. Non era nella lista dei passeggeri. Nella lista dei passeggeri. La lista. E questo personaggio ce l'ha, proprio, è fissato, vuole rapire una persona, che è una donna incinta. Una ragazza incinta. Sì, la sì. Vuole la birla, non stiamo spoilerando. No, no. I tarocchi di Lost. Insomma, la donna incinta. Esatto. Il rapitore. Insomma, succedono una serie di misteri spaventosi che non capisci un cavolo, però ti appassiona. Io devo ammettere che a me è appassionato. E il finale della prima stagione è di loro che aprono una botola nel mezzo della terra. C'è questa botola. Nel mezzo della giungla c'è una botola. Sì, nel mezzo della giungla c'è questa cavolo di botola. Con una luce. Con una luce che arriva da sotto. Che a volte si accende, a volte si spegne. A volte si accende, a volte si spegne. Loro la aprono. Allora si vede l'inquadratura viene presa da dentro la botola. Allora si vedono le facce loro che si affacciano da questa botola. No? Ciao. Che si affacciano. Le facce che si affacciano. Sì, infatti, questo accusativo dell'oggetto interno. Ma qui abbiamo uno studioso, un letterato, un non so che. Insomma. Queste facce che si affacciano e guardano la botola, l'inquadratura va sempre più in giù nel fondo della botola e finisce la prima stagione. E cioè, già lì, anzi. E già lì ti incazzi, dici no, devo aspettare la seconda stagione. Certo. Poi io dovevo aspettarla in italiano. Per cui dovevo aspettare ancora di più. Ancora di più dovevo aspettare, sì, è vero. Seconda stagione si spiega che cosa c'è in questa botola. Okay, e c'è un bunker. Prima di parlare, sì, di andare avanti così. Sì. Proviamo a far ascoltare, sì, la nostra tecnologia ce lo permette. Ci proviamo, che devo far ascoltare? I primi due spezzoni in ordine alfabetico. Allora, contestualizziamoli un momento. Vai. Allora, cosa è successo? Abbiamo raccontato un attimo e questi primi due spezzoni sono tratti dalle prime puntate. Sì. Per cui ancora non si sa niente. C'è questa gente qui su quest'isola, no? Cioè, sì. Tutto quello che ha appena detto Marco ancora non è successo. Siamo ancora all'alba. Sì. E il primo spezzone che ascolterete è, in pratica, tratta di un dialogo fra Jack e un altro dei personaggi che poi saranno abbastanza principali. Diciamo il nome, dai. Kate. Ok. Eh sì. Lei è un... Ne parleremo un pochino dopo. Ma lei è il primo discorso che fanno? Una delle prime chiacchiere. No, il primo discorso. No. Un po' dopo. E lei ha un passato un po' burrascoso. Un po'. Che tutti le chiedono: ma perché? Ma cosa hai fatto? Ma dice, no, dice, lei non vuole dire a nessuno. Fatti i cazzi tua. Sì. E a un certo punto prova ad aprirsi lei con Jack. Sì. In che senso? Di raccontare senso buono. E questo è quello che gli risponde Jack. Sì. Poi dopo il brano successivo che ascoltiamo, che li possiamo ascoltare anche in sequenza. C'è, cioè, dalla regia il regista non l'ha presa bene questa cosa della sequenza. Vabbè, lo possiamo fare noi. Abbiamo dei mezzi che ce lo consentono. Vai. Ascolteremo un discorso che Jack fa al gruppo. Ah, a tutto bene. Il gruppo dei... Eh sì, perché Jack diventa un personaggio importantissimo. Lo volevano uccidere e lui diventa il leader. E lui dice: no, voi a me non mi uccidete. Ma tra l'altro io non ci pensavo che lo volevano uccidere, perché secondo me già nel cognome Shepherd, pastore, sì, pastore, portava già il fatto che lui doveva un po' guidare le sorti, anche perché appunto di Shepherd ce ne stanno a bizzeffe, in Lost non c'è solo lui. Sì, in effetti anche questo è vero, però capito il fatto che ci fosse vabbè, questi spoiler così ora non è che vabbè, ho detto, ma non abbiamo detto niente, che i pastori in una serie TV ci possono stare i pastori. Giusto. Ok, buon ascolto di questi due brani. Sì, che ora con i nostri potenti mezzi proveremo a mandare. Speriamo che vadano, signori. Regia, vai. Ce li fai ascoltare anche a noi? Sì, sto ascoltando. Voglio dirti che ho fatto. Perché mi dava la caccia? Non voglio saperlo. Non ha importanza, Kate. Songs of freedom. Rieccoci. Ci siamo. Okay. Rieccoci. Chi era? Era Bob Marley, come avrete tutti intuito, con Redemption Song. Bella. Devo dire che la colonna sonora di Lost è sempre bellissima. Ricordo che molte puntate finivano con inquadrature sui personaggi e una musica molto bella di sottofondo. Bello. Tra l'altro, Marco ci ha fatto una sola richiesta specifica, sì, e dopo manderemo questo pezzo. Sì, perché in realtà è all'inizio, perché... Allora, visto che eravamo arrivati proprio, no, alla fine della prima stagione, che vedi, no, questa inquadratura da dentro il bunker, da dentro questo tunnel, no, questa botola nel terreno. Allora, la prima stagione ti finisce così, dici, ah, inizia la seconda stagione, ora si vede, no, che continua da quel punto lì. Dici, no, la seconda stagione inizia così. No, la seconda stagione inizia con uno che ascolta questa canzone. Ascolta proprio questa canzone, la mette e allora si alza la mattina, si fa di una cosa, non si capisce, si mette qualcosa nelle vene, fa un po' di esercizi, non si vede la faccia, no, no, si mette un vaccino, si scoprirà dopo, però, però si vede che si alza la mattina, fa una colazione, fa una colazione con le uova, ma sembra un posto tranquillo, no? Make your own, questa canzone che poi ci sarà, tutto tranquillo, fa esercizi e lì tranquillo. Però anche sportivo, a un certo punto si sente sento un rumore incredibile, lui ferma tutto, apre un armadio, ci sono dentro una serie di fucili, dico, lui tira fuori, però non si vede mai la faccia di questo qui, no? Non si vede mai la faccia. E poi si vede che guarda, se non ricordo male, io sto andando a braccio, non l'ho rivisto, guarda da uno specchio e vede le facce dei personaggi che avevamo lasciato alla fine della prima stagione, che guardavano dentro la botola. Allora lì si capisce che sono entrati, che quello sta dentro la botola. Si capisce che quello sta dentro la botola, che è suonato perché qualcuno è entrato nel posto dove sta lui. Pensavo che è suonato nel senso che è un po' toccato. No, no, no, perché quel suono di allarme vuol dire che qualcuno è riuscito a entrare. Incredibile. E quindi la seconda stagione inizia così. E uno dice, ma che sta succedendo? Non capisce niente. Vabbè. E quindi la seconda stagione è proprio tematica su quello che sta dentro questo bunker. Quello che c'è dentro la botola. Ovvero un bunker che serve a qualcosa. Nella terza stagione poi si continua. Cioè, quindi stiamo spoilerando tutte le trame di tutte le stagioni. Ma diciamo sì, qualcosina. Ok, vai. Perché alla fine, no, alla fine della seconda stagione, se non ricordo male, ricorda malissimo. Scritto davanti, cioè. No, no, non c'è scritto. Sto andando a braccio. Alla fine della seconda stagione, e non l'ho nemmeno riviso. Alla fine della seconda stagione finisce, diciamo, come? Con questo bunker che va a farsi strabenedire. C'è un'esplosione incredibile e il bunker sparisce. Auf Wiedersehen. Quindi bunker. Proprio la seconda stagione è tematica su cosa c'è in questo bunker, chi c'è in questo bunker, il mio personaggio preferito, fra l'altro, sì. E poi il bunker che sparisce. Il bunker che sparisce e che dà inizio a una serie di cose che ora è un po' difficile da spiegare. Terza stagione invece è incentrata sugli altri, come abbiamo detto prima, The Others, le persone che stanno su quest'isola. È un bel film, no, scherzo. Infatti è molto bel film, cioè se vi interessa guardatelo. The Others, sì. Però guardatelo, cioè non abbiate paura di cuore, cioè non siate... Sì, infatti, diciamo, davvero. Comunque, la terza stagione, la seconda stagione finisce anche con alcuni dei personaggi principali del nostro Lost. Alcune persone rapiti dagli altri, catturati dagli altri. E nella terza stagione si vede questi che stanno rinchiusi in delle stranissime gabbie, che sembrano gabbie per animali più che gabbie per persone, insomma, per tenere... Sembrano. Sono. Cioè, no, è che tu non lo sai mai, cioè, non è che te lo dicono, guarda, in realtà lo dicono dopo. Ma molto dopo. Sì, però quando lo vedi non lo sai. E questo è il problema di Lost. Che poi dici, ma quella... Cioè, ci torni indietro e dici, ma poi quel mistero lì l'hanno spiegato perché... No, non lo sai alla fine in realtà se l'hanno fatto o meno. Alla fine della terza stagione si sa che una nave ha raggiunto l'isola. Cavolo. E si pensa che sia... No, una nave. Un vascello. Una nave, siamo più o meno lì. Vabbè. Un veliero? No. Un sommergibile? No, una nave vera e propria. Di quelle degli anni nostri, insomma. E tutti pensano sia una nave, soprattutto una persona pensa che sia una nave con dentro persone buone, persone a lui care, no, questa persona. E in invece... realtà non è così. No. Infatti è famosa la frase, not the penny's boat. No? Cioè, però me la dici così in inglese. Sì, infatti, non è la nave di Penny, perché c'era una persona che dopo parlerò. Ah, pensavo l'avessero detto anche in quell'italiana. Not Penny's boat. No, perché c'era una persona che è innamorata di questa Penny, no? sì, questa ragazza Penny, e lui credeva che su quella nave ci fosse questa Penny. Che ma fosse... questa Not Penny's Boat, chi la dice? Non la dice nessuno, secondo me. No, non la dice nessuno, perché un'altra persona, mm-hmm, quando scopre che quella non è la nave di Penny, sta per morire. Cioè, quindi non fa in tempo a dirglielo a voce alla persona, esatto, che lui dovrebbe dirgli: oh, guarda che non è la nave della tua ragazza. Non fa in tempo, perché rimane chiuso in una cabina. Di questa un cabina, sì, no, di una stazione subacquea. Una stazione subacquea, sì, che si riempie d'acqua. Si riempie d'acqua la sua cabina. Quindi lui ha appena scoperto questa cosa, vorrebbe andare a dirglielo, ma resta chiuso in questa cabina e l'acqua lentamente riempie tutta la cabina. Quindi lui non sa come fare per dirglielo. E allora ormai è praticamente tutto nell'acqua. Allora prende una penna, si scrive sulla mano Not the Penny's Boat e glielo fa vedere tramite un vetro all'altra persona. E poi muore. E poi muore. Che storia triste. Sì, Lost è pieno di tristezza. È veramente pieno di tristezza. E questa è la terza stagione. La quarta stagione è incentrata sulle persone che arrivano da questa nave e soprattutto sulle strane cose spazio-temporali che succedono tra la nave e l'isola. Cioè, la quarta? La quarta, sì. Perché? Non la quinta? No, aspetta. Guarda che io me la ricordo meglio di te, Lost. Non l'ho nemmeno ripassato e mi ricordo. Perché? Non so se ti ricordi, ma nella quarta una cosa stranissima. Succede una cosa stranissima. Arriva sulla spiaggia un cadavere. Poi però parlano via radio con la nave e parlano con la persona che è il cadavere. Dico, che cavolo sta succedendo qui? Cioè, parliamo con una persona, parliamo sulla nave con una persona di cui qui c'è il cadavere. Com'è possibile questo? Perché in realtà l'isola ha delle proprietà spazio-temporali, come abbiamo detto prima. E quindi il cadavere arriva perché l'isola è temporalmente più avanti della nave. Diciamo così. Wow. Che l'ho vista non ci ho capito niente di tutto. Ma sì, neanche perché, guardandola a volte capivi no, subito. No, ma perché nella stessa puntata succede che poi quella persona muore davvero e il suo cadavere cade in acqua. E quindi si spiega che temporalmente, ma poi lo dice anche uno dei personaggi che arriva con la nave, che diventa poi un personaggio importante della storia, il fisico, sì, spiega come temporalmente accade questa cosa. Pompatissimo. Lo chiamano il fisico per quello. E quindi la quarta stagione si basa, diciamo, su questo discorso, nave che è arrivata, qualcuno che si salva, qualcuno che non si salva, eccetera, eccetera. La quinta stagione è veramente quella più incasinata, però a me piace un sacco. Vai, perché? Succedono movimenti spazio-temporali, le persone si trovano in un'epoca, poi si trovano in un'altra, allora si mezzo spiegano alcune cose che succedono anche nella prima stagione, cioè personaggi che si vedono, che non si vedono, si vedono scene dell'88, scene del 2004, scene degli anni 70, succede di tutto. Loro che, sapendo quello che vivono nel 2004, nel 2006 poi, allora cercano di negli anni 70 di fare in modo che non accada, di modificare il corso degli eventi per fare in modo che non accada, e finisce tutto con una grande esplosione sempre vicino al famoso bunker che c'è negli anni 2000. Sì. Alla fine non cambia nulla. No, perché loro fanno esplodere questa cosa e la quinta stagione finisce con questa esplosione. Tu dici, che succede? Perché per tutta la quinta stagione chi devono cercare salvato di fare sta cavolo di esplosione. Allora dice, la fanno, lanciano sta benedetta bomba. Quindi dici, ce la fanno, non esplode la bomba. Poi a un certo punto, alla fine, riesce ad esplodere sta cavolo di bomba, fine della quinta stagione. E tu non capisci se in realtà era un'idea giusta o un'idea sbagliata. Perché già all'inizio non lo sapevi, se c'era tutta questa diatriba, esatto, questo litigare tra di loro per capire è una cosa buona, non è sbagliata. Non è una cosa buona, infatti, la dobbiamo lanciare, non la dobbiamo lanciare. Moriremo se faremo questa cosa o non moriremo. Secondo me senti, spara una bomba a 50 metri una bomba da atomica te, tra l'altro. A 50 metri da te, io un pensierino ce lo farei. Sì, infatti, anch'io ce lo farei. E poi arriva la sesta stagione. La sesta stagione che uno dice: stagione chiarificatrice. Sì, uno dice: ah, adesso ci spiegano tutto. No, invece tutti dopo aver fatto salti temporali mostruosi. Ma sta per arrivare lo spoiler. No, vabbè, lo spoiler è stato finora, dai. Come se fino adesso invece avesse raccontato del tempo di oggi. Bruscolini. Però credetevi, in realtà non vi ho raccontato nulla. Cioè, potete tranquillamente guardare. In realtà non vi ho raccontato niente. Vi perdete veramente le cose migliori. Nella sesta stagione finalmente uno dice: ah, ora spiegano tutto, dicono che è l'ultima, spiegano tutto. In realtà non spiegano un cavolo, aggiungono altri misteri, però appaiono due entità, perché sembrano, cioè sono due entità con poteri particolari. Una delle due entità è stata sempre nominata dalla terza stagione, dalla terza o dalla seconda? Dalla terza. Forse la seconda. Forse qualcosa della seconda, ma non credo. La terza. Questo fantomatico nome di Jacob, sì, che appare in questa terza stagione o terza o seconda stagione, insomma. E questo fantomatico nome che appare e uno dice: chi sarà mai? E finalmente alla sesta stagione si vede questa cosa di faccia. A proposito di Jacob, sì, la regia. Sì, se volete io ho un... Ci può allietare con un brano di Jacob. Questo è il primo brano in cui si vede Jacob, è il primo momento video sostanzialmente in cui si vede Jacob, e si vede Jacob parlare soprattutto con un uomo, sì, di cui non si sa mai il nome. Mai. Buongiorno. Posso unirmi a te? Prego. Vuoi del pesce? Grazie, ho appena mangiato. È per quella che sei sulla spiaggia? Certo. Come hanno trovato l'isola? Quando arriveranno, chiedilo a loro. Non ho bisogno di chiederlo. Tu li hai portati qui. Per poter dimostrare che ho torto. Tu hai torto. Davvero? Loro arrivano, combattono, distruggono e corrompono. È così che finisce sempre. Finisce una volta sola e qualunque cosa succeda prima è solo progresso. Hai idea di quanto abbia voglia di ucciderti? Sì. Uno di questi giorni, prima o poi, troverò il modo di farlo, amico mio. Beh, quel giorno io mi troverò qui. È un piacere parlare con te, Jacob. Lo è anche parlare con te. Eccoci qui, eccoci di nuovo. E questa era la canzone che era all'inizio della seconda stagione. E che tu avevi espressamente richiesto. Sì, perché è carina. Poi è sempre, si è risentita anche durante le stagioni di Lost molto spesso, cioè nel senso spessissimo, molto grosso. Cioè, molto grosso, pesante anche. Sì, volevo dire una cosa. Dilla. Allora, abbiamo messo il famoso discorso tra il Jacob, questo personaggio che si è nominato nella terza stagione in una scena veramente enigmatica al massimo, una scena in cui due personaggi, uno di questi personaggi che è a capo degli altri, dice che in realtà lui non è il capo, ma il vero capo degli altri si chiama Jacob. E allora uno dei naufraghi sull'isola gli dice: portami da Jacob, lo voglio vedere. Lo minaccia e entrano in questa stanza dove c'è Jacob, ma in realtà non c'è nessuno, cioè non si vede nessuno. E questa persona persona che dice di conoscere Jacob comincia a parlare con una sedia a dondolo vuota. Ecco, gli dice: ma mi stai prendendo in giro? Ma stai prendendo, qui non c'è nessuno. Gli dice: ma basta, me ne vado, no? Quell'altro se ne va. Mentre se ne va si sente una voce. Questa voce fa: aiutami! Dice così. Ve la ricordate? Proprio con questa voce? Sì, così. No, sì, davvero. Cioè, si sentiva in questo modo. Sarà che io ho sentito quella in inglese, non me la ricordavo. Neanche io. Poi, vabbè. C'è questa voce che dice: aiutami. Vabbè, ruttando, diciamo, in generale. No. E lui si gira, comincia ad esserci una tempesta nella stanza, si muove. Aiutami. Esatto. Sembra un po' la voce di spoiler, spoiler. Insomma, succede tutto spoiler. Un casino. Succede tutto in casino in questa stanza e finisce lì, insomma, non si capisce. Si e uno si incazza e dice: ma come, sono alla terza stagione, ci sono stati un sacco di misteri prima e mi aggiungete quest'altro mistero di questa persona che dice aiutami, non si capisce un Kaiser. Vabbè, eh sì. Così. Però così poi si vede. Però poi si vede. Però in realtà questo aiutami potrebbe centrare nel discorso che si sente proprio in questa scena, no? Di uno che dice all'altro ti voglio ammazzare. No. Sai quanta sai, voglia ho di ucciderti. Ho voglia di ucciderti. Potrebbe essere quello il senso della cosa aiutami, perché c'è qualcuno che vuole uccidermi, c'è qualche entità cattiva su questa isola che vuole uccidermi. Facciamolo no, non diciamolo, vai, vai. Andiamo avanti. No, non si può dire, non si può dire. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, le proprietà dell'isola. L'isola ha proprietà spazio-temporali fenomenali. Cioè, innanzitutto... Tipo, se io sono in ritardo, vado lì e recupero il tempo? Questo non saprei dirlo, perché veramente non si capisce nulla lì com'è lo spazio-tempo. Soprattutto perché... L'isola ha queste proprietà spazio-temporali intorno, mi sembra, alla sesta, alla quinta stagione. Alla quinta stagione viene spiegato, perché uno dice, no, questi stanno su un'isola. Siamo nel 2006, 2004, no, quando cade l'aereo. Nel 2004 i GPS esistevano, le localizzazioni. Ora, come fa ad esserci un'isola sconosciuta? Cioè, uno dice, che cavolo, non è possibile. Questi magari stanno, da qualche parte. Sì, ma stanno 40 giorni lì. Com'è possibile che non venga mai trovata quest'isola? Cioè, l'uomo conosce abbastanza tutta la superficie, c'ha satelliti. Com'è possibile che non veda quest'isola? E qui sta il trucco, no? Qui ci sta il trucchetto. In realtà quest'isola ha proprietà di spostarsi nello spazio e nel tempo. Fregatura incredibile. Si trova, cioè, proprio per le sue proprietà spazio-temporali, soprattutto per quello che sta sotto l'isola, riesce a spostarsi nello spazio e nel tempo. Quindi... addirittura, ma tipo studiosi. Si sposta al comando, tipo c'è una leva. No, perché dici così? No, questo è sempre stato un mistero, perché quello che mi piace di Lost, no? È che mette le cose a metà tra scienza e fantascienza, tra fantastico, cioè tra cose che si dovrebbero spiegare con la fede. Cose che si dovrebbero spiegare perché esistono gli dèi, perché esiste un'entità superiore, e cose che si possono spiegare scientificamente. Quindi, in teoria, esistono teorie sui buchi neri e i tunnel spazio-temporali, eccetera, eccetera. Niente le potrebbero spiegare così. Però poi, per spiegarti quello che c'è là sotto, ti fanno vedere entità sovrannaturali. Quindi sembra veramente di arrivare sempre al confine dell'uomo, no? Dello scibile umano. Dove non sai ben definire dove inizia la scienza e dove inizia la finzione, la fantasia. E l'osso si mette sempre lì, sempre in mezzo lì, e non dà le spiegazioni. Quindi le proprietà di quest'isola sono spazio-temporali, quindi addirittura i militari, studiando nel tempo l'isola, riescono a capire che ci sono delle finestre temporali in cui riescono a tornare sull'isola, cioè a mettersi nello stesso spazio-tempo delle persone che stanno sull'isola. Quindi riescono più o meno ad entrare nell'isola sapendo che in quel giorno, a quell'ora, l'isola si troverà lì. Più o meno. E quindi riescono a capirlo e riescono a tornare solo in quel modo lì, studiando queste finestre spazio-temporali. E questa è una proprietà. Un'altra proprietà che si capisce dalla prima stagione è la proprietà lenitiva che ha l'isola, ovvero la proprietà di sanare alcune malattie. Infatti nella prima stagione si vede uno calvo che piove a dirotto e lui ride sotto la pioggia e saltella, sta lì contento, felice, ride, si sdraia. A me guarda non lì, sembra cioè... sanato, cioè mi sembra malato di mente. Infatti uno dice è malato di mente questo, cioè è appena precipitato con un aereo e lui è felice, è lì che guarda, che sente la pioggia, sta sdraiato, tranquillo e contento. In realtà poi si scopre che questo qui era sulla sedia a rotelle prima di cadere sull'isola. Era paralitico. Arriva sull'isola e si muove un'altra persona, una donna con un cancro che la stava devastando. E lei arriva sull'isola e sta bene. Quindi ci sono un bel po' di cose. Altre persone che dovrebbero essere sterili, quindi non poter, cioè non dovrebbero avere figli sull'isola. No, però in realtà quella non ha figli sull'isola. Ma sì. In realtà c'è un po' di una maledizione sul fatto che non si possano avere. Sì, infatti la donna incinta che continua il suo tranquillamente, no, tutti i suoi periodi di cintaggine. Sì. Come cintese lei. Esatto. Desta curiosità tra gli altri, no, tra gli altri personaggi che stanno sull'isola, perché gli altri sanno che non c'è possibilità di avere figli sull'isola. Invece arriva questo aereo con questa donna incinta e la donna incinta partorisce. Ma qui domanda, sì. da finto ignorante. Sì. Ma se non si può rimanere incinta sull'isola? Sì. La gente lì come ci arriva? Cioè, come si ripopola? Come si ripopola? Perché in realtà può andare avanti, abbiamo detto, può andare avanti e indietro. Ci sono persone, gli altri, che sanno come uscire ed entrare dall'isola. Lo sanno. Ah, per cui vanno, fanno quello che devono fare fuori e poi portano dentro. No, vabbè, non è che devono per forza portare persone lì. Però diciamo che quest'isola negli anni 70 aveva destato parecchio interesse. E quindi si era creato un dipartimento di, come che si dice, aspetta, lo devo trovare, di euristica, perché poi anche in inglese, eccolo, il dipartimento di euristica e ricerca sulle applicazioni materiali, no? Department of Heuristics and Research on Material Applications. Perché non hai fatto lingue? Sì, il Dharma, cosiddetto Dharma, questo simbolo che si vede per tutte le stagioni, il cosiddetto Dharma, che era un dipartimento che era arrivato lì sull'isola, cioè una serie di scienziati che volevano studiare quest'isola. E qui, ma erano gli anni 70. Poi e sappiamo che anni erano gli anni 70. Sì. Così. Che anni erano gli anni 70? Erano gli anni 70. Ah, io non ero nato. Forse Paccio era nato. No, non ero nato nemmeno io. Quindi niente, questo Dharma che ha fatto vari studi, e quindi si spiegano anche quelle gabbie, perché avevano portato degli animali, cioè erano tutte delle zone particolari, questo bunker, anche quello c'entrava con il Dharma. Facevano studi anche psicologici sulle persone. È vero, anche psicologici sulle persone, le facevano su quell'isola perché quell'isola aveva delle proprietà particolari. Bene, sì, bene. Sì, sì, sì. A questo punto, ascoltate me, perché io all'inizio della, cioè prima dell'inizio della puntata, appunto, avevo indetto un concorso. Giusto. A premi, no, senza il premio. Insomma, il premio è che dovevamo mandare la canzone che i nostri ascoltatori, già come avevano fatto la settimana scorsa, hanno individuato. E noi su questa canzone dovremmo ballare. Ora, loro hanno scelto un bel pezzo, perché è bella. Nudi? Se vuoi, tanto vabbè, non c'è, dai, nessuno, vai, non è ancora arrivato nemmeno Luca de All 19's Long, possiamo anche farlo. E dunque, il pezzo che dobbiamo, ci tocca ballare, è Stay Wasting Time di Dave Matthews Band. E ora, se riesco a farlo partire, io spero di sì. Voi potrete guardarci ballare in radio. Incredibile. Sì. Ma è vero. tornati, abbiamo ballato. Sì. Piero è quello che ha ballato di più di tutti. Sì, è vero. Tu è quello che ha ballato meno di tutti. Vabbè. Paccio ha ballato il giusto. Il giusto. Allora, e poi, ridiciamo un'altra cosa. Inef, sì. Lo so che tu ci hai detto che dobbiamo mettere la webcam qui, ma il presidente non vuole, e quindi... No. Mannaggia questo presidente. Allora, sì, torniamo all'osso. Che il tempo stringe e non abbiamo, non ci perdiamo più in chiacchiere, non ci lo stiamo più. No, infatti, la struttura delle puntate di Lost. La struttura delle puntate di Lost è una cosa veramente interessante. Perché cioè, è anche stata uno svolgimento e una fine. No, perché anche questa è stata una innovazione, anche questa nelle serie TV, così come anche per il cinema alla fine. È una cosa molto interessante e particolare. In ogni puntata c'è una, ovviamente, no? Sempre ogni puntata in qualche modo inizia e finisce, no? con un tema. E nelle prime stagioni il tema è il passato. È ripartita la musica. Il tema è il passato delle persone che. Delle persone che sono schiantate. Dei protagonisti. Perché nelle ultime stagioni invece non è più il passato? Esatto. No, aspetta, prima di fare questo c'è un bel po' in mezzo. Allora, quindi la prima e la seconda stagione si alterna così. Quello che succede sull'isola è per ogni puntata il flashback di uno dei personaggi. Quindi piano piano nelle prime due stagioni andiamo a conoscere il passato. Ma anche in quelle successive, ma soprattutto nelle prime due. Ok. Anche nella terza stagione. Ma la terza stagione c'è una cosa particolare all'ultima puntata. C'è una cosa veramente strana che io quando vidi l'ultima puntata della terza stagione e dissi, ma qui che succede? Praticamente nell'ultima stagione nell'ultima puntata della terza stagione si vede Jack. Oh, guarda, ha aperto Wikipedia il nostro spazio e ha trovato proprio la famosa frase "not Penny's boat", come avevo detto io, insomma. E stavamo dicendo, nell'ultima puntata si vede un flashback di Jack. E tu per tutto il tempo dell'ultima puntata della terza stagione credi che sia il flashback di Jack. In realtà, poi, vedendo una scena finale di questo famoso flashback, vedi che Jack parla con Kate. Ma Jack e Kate non si conoscevano prima. Allora si capisce che in realtà loro sono tornati sulla terraferma e parlano di tornare sull'isola. Quindi da quello capisci che quello non è un flashback, ma un flash forward. Cioè è quello che succede. È un'altra serie TV, cioè, flash forward. Hanno infilato una serie TV dentro una serie TV. Geniale. No, voleva dire che è un flash nel futuro. Nel futuro. Perché infatti poi i quattro ritornano a casa alla fine della quarta stagione. E la quarta stagione, i sei, scusami, hai ragione, i sei dell'Oceanic, così chiamati, perché sono quelli che riescono in qualche modo a, ma nemmeno tanto volentieri la maggior parte, perché una di queste ha infilato il marito lì sull'isola, quindi non è molto felice. Ci sono sei che riescono a tornare sulla terraferma, però quando tornano sulla terraferma, quindi questo diciamo è la quinta stagione. Sì, è la quarta stagione. In realtà è la quarta stagione. Lo dico anch'io, è la quarta stagione. È la quarta stagione, la più corta di Lost, fra l'altro, perché c'era il famoso sciopero degli sceneggiatori. E quarta stagione in cui si basa sul fatto che alcuni di loro rientrano sulla Terra e quindi si vede cosa accade a loro sulla Terra e intanto sull'isola. Quindi è diverso dalla terza stagione famosa. Ma la quarta, cioè, è sempre un flash forward, perché la quarta stagione finisce con loro che tornano, cioè che lasciano un macello incredibile. Lost è sempre stata così. La quarta stagione quindi finisce con questi sei che tornano sulla Terra. Però per tutto il tempo della quarta stagione hai visto i flash forward, quindi hai visto che è successo mentre loro cioè tu vedi il futuro mentre loro sono ancora lì nell'isola. Sì. Infatti devo dire che seguire la cronologia di Lost è un bordello. La quinta stagione succede il putiferio più totale, perché è quella che abbiamo detto, che si va avanti e indietro nel tempo, si vedono cose di tutti i tipi, cioè non si capisce niente, confusioni spazio-temporali incredibili, perché quelli che vogliono rientrare sull'isola riescono a rientrare sull'isola, ma Quindi i famosi sei dell'Oceanic, alcuni, no, tutti di loro rientrano sull'isola, tutti. Tranne il bambino. Tutti. C'è un bambino. C'è un bambino. Dove viene fuori Spoiler. Il bambino? Spoiler. C'è Giuseppe. No. I bambini, eccoli, dove erano i bambini? Non era uno spoiler. Quindi rientrano sull'isola, però loro erano sicuri di essere rientrati in un anno preciso, ovvero quando, cioè 3 anni dopo che loro avevano lasciato l'isola, e invece rientrano negli anni 70. Però in realtà molto figli dei fiori, quindi. Però in realtà per quando loro sono usciti dall'isola, l'isola ha viaggiato nello spazio-tempo e soprattutto le persone, i naufraghi, no, del famoso aereo, hanno viaggiato anche loro nello spazio-tempo dell'isola e si sono ritrovati lì. Si sono ritrovati negli anni 70 alcuni e hanno passato 3 anni negli anni 70. Ah, però e si ritrovano infatti quelli fuori dall'isola 3 anni dopo. Tornano sull'isola e si trovano negli anni 70. Uno di loro che dice: ai miei tempi, che tempi sono? Infatti, e questo è il vero macello. E questo è il vero macello. Non poter raccontare. Infatti, anche Paccio è stato sull'isola e dice: ai miei tempi, si capisce mai quando è. Oppure mi ricordo qualche giorno fa. Infatti, non si capisce un cavolo. E quindi la quinta stagione funziona in questo modo un po' strano. La sesta, è più o meno finale, quindi è un po' più particolare, si vede un po' cosa succede, tutto quanto non... ma lo facciamo, i flashback ci sono sempre alla fine, in un modo anche flash forward e anche flash forward, sì, però ma poi la facciamo lo spoilerone finale. Lo spoilerone finale andrebbe fatto, cioè, perché ho un po' il senso di Lost. Io dico ho sbagliato, scusatemi, nella sesta stagione no, non ci sono né flashback né flash forward. In realtà ci sono dei flash qualcosa che la gente dice: ma che cavolo sta succedendo? Cioè, vedi, un'altra flash, realtà praticamente. Sono vedi. Flash forward. No, sì, sono flash, vabbè, forward. Allora, non confondiamo, flash... Oltre. Esatto. Vabbè. Diciamo, no, che in questa, nella sesta stagione, lo spazio dedicato ai soliti flashback e flash forward è dedicato in realtà a una visione di una realtà in cui alcuni personaggi che per 5 stagioni si conoscevano o non si conoscevano, in quell'altra realtà succede di tutto. Cioè, alcuni che sapevi che nel loro passato stavano insieme a una persona li vede un'altra, oppure vedi altre cose che non capisci. C'è bella gente proprio, cioè, che prima sta con uno poi con un altro, cioè, no, non sai come inquadrarla temporalmente. Poi alla fine, col finale di Lost, viene spiegato. Ok. Viene spiegato da un fantomatico personaggio di Lost, ovvero il padre di Jack. Il padre di Jack. Il pastore principale. Jack, che in realtà, cioè, Jack perché si trova su quell'aereo? Jack si trova su quell'aereo perché? Perché il suo padre era un... Il suo padre, era un chirurgo di successo. E quindi chiaramente Jack era su un aereo. No, però aveva anche un altro problema. Era anche un alcolizzato di successo. Aveva e quindi successo tra gli alcolizzati. Sì, infatti. Volendo che succede? Un altro di problema. Volendo proprio dire. Sì, volendo. Però, insomma, che succede? Che lui fa un'operazione e in questa operazione era ubriaco e ammazza la paziente. No. Al figlio gli dice: figliolo, al processo, tu testimoni a favore mio, così non succede nulla, io posso continuare a fare il medico. Il figlio, sapendo che la vittima era anche incinta, decide di testimoniare contro il padre. E il padre va allo sfascio totale, radiato dall'albo dei medici, la prende malissimo, va in giro per il mondo e il figlio decide, dopo un po' di tempo, di andare a cercarlo e si ritrova in Australia. Si ritrova in Australia e purtroppo quando arriva lì però il padre è già morto. Morto per un arresto cardiaco dovuto al troppo alcol. Quindi il padre era messo veramente male. E quindi lui decide di riportare la bara a Los Angeles. Quindi il viaggio 815 da Sydney a Los Angeles, c'è Jack con suo padre in una bar. Però quando arriva sull'isola sto cavolo di padre è in piedi e cammina e non si capisce perché. E soprattutto la spiegazione finale di questi flash qualcosa che viene spiegata dal padre di Jack. E beh, lui era avanti. Sì, questo personaggio è sempre stato strano in Lost. Per tutte e 6 le stagioni, sempre apparso in un modo o nell'altro, dava notizie, diceva cose, è incredibile veramente. Vero? Sì, in effetti. Eh sì, siamo in ritardo, vero? E non abbiamo detto nulla di Lost. Non abbiamo... Dovremmo farne un'altra di puntata. Dovremmo. Facciamola. Facciamola. Se volete la facciamo, però un po' una sintesi di Lost l'ho fatta, però... Facciamo quella sui personaggi, non lo so. Ah, sì. Che dici? Se volete, sì. Giovedì prossimo. Giovedì prossimo no. Anche no. L'altro ancora. L'altro ancora. Se può fare. Va bene. Vai. Vai. O vai. Continuiamo a tenere Paccio con noi. Sì. Tra l'altro, da giovedì, siccome monoserie non c'è più, ci puppiamo la mezz'ora di monoserie. Diventiamo un programmone di due, un pappone, cioè, incredibile. Ci espandiamo come eravamo all'inizio. Mentre prima sforavamo. Vabbè, all'inizio sforavamo perché tanto non c'era Cinemando all'epoca. Che era il programma che veniva dopo lo storico programma. Aspettando Cinequando era. E quindi noi aspettando continuavamo e sforavamo fino alle 11, cose assurde. Adesso ci manteniamo nelle due ore, diciamo, da giovedì prossimo. Ok. Quindi cosa facciamo? Facciamo lo spoilerone o a questo punto lo rimandiamo? Rimandiamo. Lasciamoli sulle spine. Il programma dopo incombe. C'è Luca che è qui, sta un po' gufo, che deve cominciare, giustamente. Più che giusto. Dunque, mandiamo l'ultimo pezzo. Sì. Mandiamo il penultimo pezzo. Allora mando due pezzi, li annuncio tutti insieme. O vai. O no. No, vai. Allora, li annunciamo insieme o salutiamo dopo? Decidete no, voi. No, salutiamo adesso. Salutiamo adesso. Ognuno dice una cosa diversa, mi fa piacere. Dunque, salutiamo adesso e mandiamo in sequenza Everyday di Buddy Holly e Delicate di Damien Rice. Okay. Bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona a giovedì a prossimo. Tutti. E buon Atlantis Long. Ciao. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.